La bellezza della fede. Riflessioni su frammenti biblici proposte da Monsignor Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu gioia e letizia del mio cuore. Sono le parole del profeta Geremia in un momento difficile della sua vita e della sua predicazione, nelle quali il profeta manifesta però la sua fiducia nella parola di Dio, quella parola che egli ha divorato e che una volta divorato ha provocato nel suo cuore gioia e letizia. Vogliamo attraverso questi incontri di lettura e meditazione della parola di Dio chiedere anche per intercessione di Geremia che possa verificarsi anche per noi questa esperienza di gioia, di letizia, nel momento in cui la parola di Dio viene da noi letta, meditata e pregata. In questi incontri cercheremo attraverso le figure della storia della salvezza di vedere come il progetto di Dio si è compiuto e realizzato nella storia grazie alla sua fedeltà e nello stesso tempo grazie alla fedeltà di uomini e di donne che hanno detto il loro sì al progetto di Dio. Un sì spesso faticoso, a volte con fatiche, con ritardi, con ribellioni, ma in ogni caso sempre un progetto che è stato portato da Dio a compimento grazie alla sua benevolenza e alla condiscendenza di uomini e di donne che hanno detto e che hanno dato meglio il loro assenso a questa parola. Iniziamo il nostro percorso partendo proprio dalle pagine iniziali della Sacra Scrittura, quello che è il libro della Genesi e in particolare in questi primi incontri attraverso i primi 11 capitoli. Che sono 11 capitoli premessi alla grande storia che avrà come protagonista Abramo e hanno lo scopo, attraverso una lettura teologica e sapienziale, di dirci qual è il senso e il significato del mondo creato da Dio e qual è il posto che l'uomo occupa in questo meraviglioso affresco che l'autore biblico ci offre. In altre parole, la grande domanda, le grandi domande che investono il cuore dell'uomo, perché cosa sono creato, per chi sono creato, qual è il senso e il significato della mia vita, qual è l'esperienza, qual è il significato della gioia, dell'esperienza di felicità, come anche di quelle esperienze di limite, di fragilità, di malattia, di prova e anche di morte, che sono la comune eredità di ogni essere vivente. Cercheremo attraverso questi incontri di cogliere il messaggio teologico e spirituale profondo consegnato in questi racconti e che mantiene sempre una grande attualità. Possiamo dire che è un grande tesoro a cui possiamo andare più volte per attingere quella sapienza di vita, quell'esperienza di fede che ci è necessaria anche nei tempi nei quali noi ci troviamo a vivere. Il primo racconto di cui ci occupiamo in questo nostro primo appuntamento è quello di Genesi 1, 2, 4. Quando noi leggiamo questo testo veniamo immediatamente colpiti da una esperienza di abbastanza chiara nella quale con grande insistenza l'autore, con un ritmo cadenzato, ci consegna questo racconto. Lo scopo è quello di offrire al lettore un affresco ben congegnato, ben ritmato, dove tutto è guidato dalla parola di Dio. È la parola di Dio che opera una distinzione, questo mondo che è creato come qualcosa di informe, di vacuo, di inconsistente, è dalla parola di Dio creato come una realtà ordinata, dove tutto ha il suo posto, dove tutto viene distinto e ha la sua giusta proporzione. Quando tu leggi questo capitolo, immediatamente hai l'esperienza di qualcosa di solido, una pace, tutto è, e lo dice frequentemente l'autore, tutto è molto buono. La creazione è qualcosa di positivo, è qualcosa di bello, è qualcosa di affascinante, dove l'uomo può sperimentare l'originalità e anche la creatività di Dio, che tutto ha creato affinché l'uomo potesse sperimentare la benevolenza, la felicità e la gioia. Il culmine di questa azione creatrice di Dio è la creazione dell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. Creato a immagine, maschio e femmina, a somiglianza di Dio, è posto da Dio al centro di questo mondo creato. Tutto è sottoposto alla sua autorità e l'uomo può esercitare, grazie a questa delega che Dio gli ha dato, un potere. Certo, un potere sempre collegato a quella che è l'azione di Dio, ma un potere nel quale egli può effettivamente sperimentare che Dio è suo amico, che Dio ha creato tutto per lui, che l'uomo è il destinatario di un'azione meravigliosa, affascinante, nella quale l'uomo può sperimentare la gioia, la bellezza, la solidità. Un'immagine, insomma, di grande consolazione emerge da questo primo racconto. Chiediamo, attraverso la meditazione di questa parola, che noi possiamo ogni giorno sperimentare la bellezza e lo stupore del mondo nel quale noi siamo. Diceva un grande autore ebreo, Eschel, che il mondo non morirà per mancanza di informazione, ma morirà a causa della mancanza dello stupore. Leggendo questa pagina possiamo chiedere la grazia al Signore di poter rinnovare in noi questa esperienza affascinante di stupore, contemplando il mondo creato nel quale noi siamo posti come immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo visto il primo racconto, ma la Genesi immediatamente, subito dopo, ci dà un secondo racconto della creazione. Non è in contraddizione con quanto precede, ma è una lettura un po' diversa, una prospettiva un po' cambiata, nella quale l'autore sacro questa volta concentra immediatamente l'attenzione sulla creazione dell'uomo. Creazione dell'uomo posto in un ambiente che sembra richiamare l'ambiente della Palestina, deserto, con poca acqua e vegetazione. È l'immagine di un giardino che progressivamente viene arricchito dall'azione creatrice di Dio. Il centro, come dicevo, di questo secondo racconto è la creazione dell'uomo, tratto dalla terra, come dice esattamente l'espressione Adamo, Adamà, dalla terra. Questo dice, diciamo così, la fragilità, la condizione umile dell'uomo che è tratto dal suolo, plasmato da Dio. Questa è la dimensione di fragilità che tante volte troviamo descritta nella Scrittura e nei Salmi. Ma accanto a questa dimensione di fragilità c'è la grandezza, perché Dio immette nel cuore, in questo composto di polvere, il suo soffio vitale. In questo modo l'autore sacro descrive in modo molto concreto quella che è la grandezza, la dignità inestimabile dell'Adamo insieme alla sua fragilità. E c'è un dettaglio importante. Adamo sperimenta la solitudine. Ed ecco che è Dio che si accorge della condizione di solitudine dell'uomo e prende provvedimenti. Il testo sacro ci racconta che questo torpore che coglie Adamo affinché gli possa essere fatto un aiuto che gli corrisponda, che gli stia, letteralmente, che gli stia davanti. La creazione della donna è la creazione nella quale l'uomo può sperimentare un aiuto che gli corrisponde, che è al suo stesso livello, che ha la medesima dignità. In modo tale l'uomo è sottratto a un grande pericolo, a una grande insidia, quella della solitudine, perché l'uomo, secondo questa prospettiva, è creato per la comunione. È la comunione che realizza pienamente quello che è il desiderio e l'anelito che l'uomo si porta dentro al proprio cuore. È chiamato l'uomo insieme alla donna a custodire e coltivare il mondo che gli è stato affidato. È una custodia premurosa. Si tratta di custodire e di coltivare, cioè di collaborare con Dio all'opera della creazione. Creati dunque l'uomo e la donna per una reciproca comunione a cui è affidata ad entrambe la custodia e la coltivazione della terra. È chiaro, un ultimo dettaglio, l'uomo viene posto all'interno di questo giardino nel quale ci sono due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo dovrà attenersi a questo comando di non prendere di quel frutto della conoscenza del bene e del male. Può sembrare un comando strano, in realtà l'uomo che è chiamato in realtà a compiere un'opera di discernimento la potrà compiere, quest'opera di discernimento, solo in obbedienza al suo creatore. In altre parole, l'autore biblico ci vuole dire che non si tratta tanto di limitare l'uomo, quanto piuttosto di aiutare l'uomo a vivere un'obbedienza che lo rende autenticamente libero, capace di conoscere il bene e il male nella misura in cui rimarrà sotto l'obbedienza premurosa di Dio che lo ha creato. Se il mondo è stato creato da Dio per la nostra felicità, se tutto è stato sapientemente preparato e tutto è molto buono, allora l'interrogativo è: da dove viene il male? È l'interrogativo che aveva appassionato Sant'Agostino. Mi chiedevo da dove venisse il male e non c'era risposta. Ecco, l'autore biblico ci aiuta a capire da dove viene il male, perché l'uomo, oltre a fare l'esperienza dello stupore, della meraviglia, della solidità, della bellezza nel mondo nel quale si trova, al tempo stesso fa l'esperienza del dolore e della sofferenza. Da dove viene il male? Da dove la prova? Perché l'esperienza tragica della morte? Il capitolo terzo del libro della Genesi è la risposta. Lo conosciamo molto bene, il serpente tenta i nostri progenitori, Adamo ed Eva, insinuando nel loro cuore che Dio non è quell'amico che vuole la loro felicità. Al contrario, il comandamento che ha dato a loro in realtà vuole limitare la loro libertà, anzi vuole impedire a loro di diventare come Dio. Il serpente insinua, è forse proprio un'immagine eloquente di come il pensiero si insinua dentro al cuore e alla mente dell'uomo, deformando il volto di Dio. Dio non è più il padre premuroso che provvede alle nostre necessità, è invece il nemico acerrimo della nostra felicità. Il comando che ha dato di non prendere di quell'albero in realtà è la salvaguardia del suo potere. l'uomo deve rimanere sottomesso. Allora il peccato, che viene suggerito, sembra essere un modo attraverso il quale l'uomo può realizzare la sua felicità. Il peccato appare agli occhi dei nostri progenitori come un atto di libertà per salvaguardare la nostra felicità. È un grande inganno il peccato. Infatti, nella lingua ebraica ci sono diversi modi per definire il peccato. Uno di questi ci dice che il peccato è sempre sbagliare un bersaglio. Sbagliare il bersaglio, cioè avere e pensare di ottenere qualcosa attraverso la nostra intraprendenza e scoprire che effettivamente il peccato ci dà qualcosa, ma non ci dà quello che ci aveva promesso. È una grande illusione. Il tentatore riesce a inoculare nel cuore di questi nostri progenitori l'idea che Dio sia il grande avversario. Stendono la mano, prendono di quel frutto, si aprono gli occhi e immediatamente si vede la delusione, quella delusione. C'è una conoscenza che non porta alla felicità, ma all'esperienza della solitudine. E infatti l'effetto di quest'atto, che è un atto di ribellione, il peccato dei nostri progenitori è un atto di superbia, vogliono avere con le proprie forze ciò che in realtà Dio gli avrebbe dato come grazia, come dono, ma si vuole conquistare. E l'effetto è che le relazioni tra Adamo ed Eva diventano relazioni di conflitto, di dominio dell'uno sull'altra. Il lavoro della terra non è più un lavoro di sinergia con l'azione di Dio, di custodia, ma un duro lavoro. Il generare la vita diventa qualcosa collegato con il dolore e la sofferenza. In questo contesto, che sembra compromettere radicalmente il progetto di Dio, Dio rimane fedele. E nonostante gli effetti devastanti del peccato, già in questo testo troviamo l'annuncio di quello che sarà il cammino della redenzione, che la tradizione cristiana immediatamente legge come l'esperienza di quella della Vergine che darà alla luce dalla sua stirpe una discendenza che schiaccerà la testa di quel serpente. E c'è un altro dettaglio: Dio fa le tuniche, veste Adamo ed Eva, rimangono sempre suoi figli anche nel peccato. Un'ultima notazione: quando si tratta di combattere il nemico, il tentatore, un buon consiglio che salta fuori da questa parola è di non entrare mai in dialogo con lui. E Gesù, quando sarà tentato, non entrerà in dialogo con il diavolo, ma semplicemente risponderà alle sue provocazioni con la parola di Dio. Dopo il peccato dei nostri progenitori, il racconto continua e ci fa vedere le conseguenze che sull'umanità questo peccato ha prodotto. E infatti dal capitolo 4 fino al capitolo 9 di Genesi troviamo una sorta di diluvio di peccato e di malvagità che sembra non avere alcun momento di arresto, anzi cresce in modo esponenziale la violenza, la morte e la devastazione che da questo peccato dei nostri progenitori si riversa in modo, diremo così, sovrabbondante su tutta l'umanità. Il primo effetto è l'uccisione da parte di Caino del fratello Abele, un peccato di invidia, quell'invidia che, dice l'autore della Sapienza, ha causato l'ingresso della morte nel mondo. Per invidia del diavolo entrò la morte nel mondo, e nella relazione che intercorre tra Caino e Abele si vede molto bene come l'incapacità dell'uomo di dominare i propri sentimenti porta all'uccisione del fratello Abele, un fratello fragile, come dice l'espressione Abele, Hevel, un soffio, Caino che si sente sicuro e diventa, invece che il custode di suo fratello, l'uccisore. Anche qui, nei confronti di colui che si è macchiato di un crimine così grande, Dio non fa mancare la sua protezione. Guai chi stenderà la mano contro Caino, nonostante gli porterà le conseguenze di questo peccato commesso nei confronti del fratello. Ma da qui la malvagità si sviluppa e cresce tanto che troviamo un'espressione abbastanza inquietante. Dio si pentì di aver creato l'uomo. Tanto era capace di una tale malvagità. Colpisce questo modo col quale l'autore sacro legge i sentimenti di Dio. Dio si pente. Allora la distruzione, l'effetto è quello di una realtà così ben creata, compromessa dal peccato dell'uomo e dinanzi alla quale Dio sembra inerme, rassegnato. In realtà, con Noè, Dio mostra che niente potrà distruggere ciò che egli ha creato. E attraverso l'esperienza di quest'uomo giusto, che insieme alla sua famiglia e insieme agli animali creati, una rappresentanza significativa, viene salvato nell'arca da questo tremendo diluvio, è il segno che in fondo, per quanto l'uomo sia capace di fare tanto male, ciò non impedirà alla creazione e al progetto di Dio di andare avanti. Un giusto, un resto, salverà. Salverà e porterà avanti il progetto di Dio. Possiamo dire che questo sarà una costante di tutta la storia della salvezza. Quando tutto sembra irrimediabilmente compromesso, in realtà Dio suscita uomini e donne che, fedeli alla sua parola, portano avanti il suo progetto. Mi piace qui ricordare quello che diceva un grande autore spirituale, un grande commentatore della scrittura, padre Rossi De Gasperis, Francesco, che diceva e scriveva che la scrittura, la parola di Dio, ci consegna sempre un cantiere aperto, dove ciò che è compromesso dal peccato dell'uomo viene restaurato da Dio continuamente, ma il restauro è sempre meglio del punto di partenza. E questo ci dà una grande consolazione. Evidentemente non è che pecchiamo perché vogliamo che così il Signore eserciti la sua misericordia, ma in fondo, dietro a questa azione, dietro a questo modo di fare, Dio rivela ciò che realmente è: infinita misericordia. E anche da un grande male, un grande bene. È significativo che San Pietro, nella sua prima lettera, al capitolo 3, legga questa esperienza del diluvio come l'immagine del battesimo, quel battesimo purificatore che toglie il nostro peccato, la nostra opposizione a Dio e nello stesso tempo ci crea, ci trae fuori da quell'arca come creature nuove. Chiediamo la grazia al Signore di poter imparare dai nostri peccati, di non rendere inutili e sterili i nostri peccati, affinché attraverso questa esperienza di perdono possiamo essere, là dove il Signore ci ha posto, segno e sacramento della sua misericordia e benevolenza. Dopo il peccato dei nostri progenitori, la caduta di Adamo ed Eva, con la conseguenza poi dell'uccisione di Abele da parte di Caino, assistiamo ad un diluvio. Ma che genere, che tipo di diluvio? Un diluvio di malvagità, un diluvio di morte, di prevaricazione, di ingiustizia. Sembra che la creazione sia inghiottita, quasi travolta da un male che non ha nessun limite, che sembra pervasivo, che contamina nella sua essenza più bella quella che era la vicenda della creazione. Vi ricordate, nei testi iniziali si diceva frequentemente: Dio vide che era cosa molto buona. Ora, questa bontà innata nell'azione creatrice di Dio sembra essere inesorabilmente compromessa dalla malvagità dell'uomo, tanto che possiamo trovare un'espressione che in qualche modo ci sorprende. Dio si pentì, dice l'autore sacro, di aver creato l'uomo e se ne addolorò in cuor suo. Fa impressione questo pentimento di Dio di fronte a un dilagare del mare, di quello che l'uomo è capace di fare nel momento in cui esce dalla relazione amicale con Dio. Viene in mente quello che il grande romanziere Fyodor Dostoevskij dice nei Fratelli Karamazov: quando il servo tenterà di giustificare l'uccisione del suo padrone, dirà che questa uccisione è la conseguenza di una frase che ha sentito pronunciata da uno dei suoi figli, Ivan Karamazov, quando lui dice: Dio non esiste. Se Dio non esiste, tutto è possibile. Il servo Smerdiakov ucciderà il suo padrone avendo come punto di riferimento questa espressione: se Dio non esiste, tutto è possibile. Ho ucciso quest'uomo cattivo perché in fondo Dio non esiste. Possiamo dire che è sempre la logica che accompagna la lettura teologica di questi capitoli. Nel momento in cui l'uomo esce dal progetto creatore di Dio, dalla sua relazione, diventa l'uccisore del suo fratello. L'impietà dilaga e Dio sembra quasi meravigliarsi del potere che l'uomo ha di contaminare con le sue azioni ciò che in realtà era stato creato così molto buono e molto bello. Ma subito dopo l'autore sacro ci dice che Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Sembra che Dio si penta di essersi pentito. È un linguaggio chiaramente antropomorfico, si cerca di rendere ragione e accessibile un messaggio che altrimenti sarebbe incomprensibile. Cioè, nel momento in cui l'autore sacro vuol farci vedere che il peccato ha un potere devastante non solo su chi lo commette, ma anche sugli altri. Il peccato ha sempre, purtroppo, un effetto sociale, così come anche il bene ha un effetto diffusivo su chi lo compie, evidentemente, e su coloro di cui ne beneficiano. Se da una parte l'autore sacro vuole mostrarci la gravità del peccato, dall'altra però vuole anche celebrare la grandezza e la misericordia di Dio. Dio è più grande del nostro peccato. E questo trovare grazia agli occhi di Dio da parte di Noè è il segno che Dio si è già attivato perché la sua creazione non sia totalmente travolta. E Noè appare un uomo obbediente, estremamente obbediente. Non dice nessuna parola quando gli viene ordinato di costruire l'arca, la compie, fa esattamente solo e unicamente ciò che Dio gli dice. Pensate che non chiude nemmeno la porta dell'arca, perché Dio non gliel'ha detto di chiudere la porta. Ed l'autore sacro dice che Dio chiuse la porta dell'arca. Vedete, con anche un certo scrupolo, Noè si attiene a quello che è la parola di Dio e compie la sua volontà. Allora le acque che scendono abbondanti diventano il simbolo di una purificazione che Dio pone nei confronti di questa creazione contaminata dal peccato dell'uomo. Non è tanto, vedete, da leggersi come una punizione di Dio, perché in realtà il peccato porta con sé già la sua punizione. Notate che nell'arca entrano anche degli animali che nella tradizione ebraica sono considerati impuri. Significa che l'azione di misericordia e di benevolenza di Dio è un'azione che coinvolge la totalità della sua creazione e di tutto ciò che egli con la sua provvidenza ha chiamato appunto alla vita. Una volta entrato, uscito dall'arca, Dio dice: non colpirò più l'uomo con il diluvio, perché il cuore dell'uomo è incline al male fin dall'adolescenza. Sembra proprio che Dio si renda conto che la via attraverso la quale avverrà questa purificazione non sarà più un diluvio, ma un'altra strada. Ed è qui che Noè assume i contorni di una figura profetica, totalmente obbediente, totalmente silenzioso di fronte alla volontà di Dio, diventa in qualche modo profezia del Cristo. E infatti l'apostolo Pietro, parlando del diluvio, parla del diluvio e delle acque del diluvio come immagine, simbolo e figura del battesimo, di quel battesimo che ci inserisce vitalmente nella morte e resurrezione di Cristo. Una volta uscito, Dio stipula con Noè e con la sua famiglia un'alleanza eterna. Un'alleanza eterna di cui il segno diventa quell'arcobaleno, quella multiformità di colori, di bellezza. Allora possiamo dire che soltanto Dio, da un grande male, può trarne un grande bene. E la Torre di Babele. Soffermiamoci un attimo su questo episodio della Torre di Babele per poi introdurci nella vicenda di Abramo. Gli uomini hanno tentato di costruire la loro città, questa torre, che è l'immagine di una città che si innalza verso il cielo, partendo dal basso, pensando di poter creare l'unità e la comunione escludendo Dio o addirittura in opposizione a Dio. Possiamo dire che il desiderio di creare unità e comunione tra gli uomini è un desiderio legittimo, ma le modalità con le quali questo desiderio viene attuato sono sbagliate. L'effetto è appunto una Babele, come dice l'espressione, cioè una confusione. Il tentativo dell'uomo di farsi un nome o di darsi un nome escludendo Dio o addirittura in opposizione a Dio. Ecco, questa vicenda nella quale l'uomo alla fine si perde, ed è significativo che gli uomini non riescono più a intendersi, prepara l'irruzione di Dio nella vita di Abramo. Viene rivolta una parola, come era stata rivolta ad Adamo all'inizio, ad un uomo, ad Abramo. E troviamo qui una chiamata che porta Abramo a uscire dalla sua terra, a lasciare il contesto vitale nel quale fino allora aveva vissuto per mettersi in viaggio. Notate questo capitolo 12, semplicemente Dio gli dice: ti indicherò verso la strada, verso la terra che io ti indicherò. Una indicazione molto generica. E Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. A questa partenza obbediente sono legate alcune promesse: far diventare Abramo una grande nazione, donargli una benedizione, far diventare grande il suo nome e diventare lui stesso una benedizione per coloro che l'avrebbero riconosciuto come benedetto da Dio. Ciò che colpisce, Abramo ha 75 anni, è che dinanzi a questo ordine che lo sradica da un contesto familiare, da un contesto conosciuto, Abramo non ponga nessuna obiezione. Non chiede nessun chiarimento, almeno sulla terra verso la quale egli avrebbe dovuto incamminarsi. Domande, diciamo così, più che legittime. E invece Abramo parte. È una risposta piena e intrisa di fede e di abbandono fiducioso. Non chiede segni, semplicemente si alza e parte. Egli diviene così il prototipo dell'uomo di fede. Che cos'è la fede? Ogni tanto ce lo domandiamo. Ci domandiamo anche noi stessi, ma siamo effettivamente persone di fede? A volte pensiamo che la fede sia innanzitutto credere a determinate verità, che è anche evidentemente questo. Ma prima di tutto la fede si sviluppa nell'ambito di una relazione dove io mi affido, compio determinate cose perché affido la mia vita a un altro che io ritengo affidabile, degno di fede, di fiducia, e così mi metto in viaggio. La fede è sempre una relazione. Abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ad Abramo, leggendo e meditando il testo del capitolo 12, nel quale Abramo si mette in viaggio sull'ordine del Signore. Già avevamo accennato al fatto che il cammino della fede, anche per Abramo, non è un cammino lineare, che ci sarebbero stati dei momenti di difficoltà, di prova, di arresto. E il testo che vediamo oggi, capitolo 18, ci testimonia di uno di questi momenti nei quali Abramo e Sara si trovano in difficoltà. L'età avanza, Abramo ha 100 anni, Sara 90. Dov'è la promessa di un figlio? Come mai Dio ritarda? Questo ritardo ha provocato in Abramo e Sara tentativi di attuare questa promessa di Dio con le loro modalità. A un certo punto Sara dice ad Abramo: guarda, abbiamo una brava schiava, Agar, prenditi lei, lei ti darà un figlio. E infatti nasce il figlio Ismaele, ma da lì incominciano un po' le difficoltà. Sara incomincia a capire che la serva, la schiava non la rispetta più e viene allontanata. Ecco, questo episodio ci fa capire come ci sono dei momenti nel cammino della fede in cui tentiamo di riprendere in mano noi le redini della nostra vita. Ci siamo certamente affidati al Signore in un momento, poi vedendo che i conti non tornano, che Dio ritarda, che Dio sembra assente, non curarsi di quello che Egli ha promesso, ci riprendiamo in mano la vita. Cerchiamo noi di segnare le tappe e di trovare un'attuazione umana alla promessa di Dio. Ecco, in questo frangente di fatica, di dubbio, di perplessità, Abramo e Sara hanno una visita. Il racconto, quando lo leggerete per esteso, è dominato da un certo mistero. Chi sono questi tre viandanti misteriosi che poi diventano una persona sola? E c'è un mistero di rivelazione e anche di nascondimento. Certamente la premura con la quale Abramo accoglie questi ospiti, la fretta con cui fa preparare una focaccia e tutto il resto, è il segno che Abramo ha intuito che questi personaggi che sono venuti non sono semplicemente degli uomini, ma degli inviati di Dio. È vero che nella cultura dell'Oriente l'ospitalità è un grandissimo valore, ma attraverso questa ospitalità premurosa, ripeto, la fretta con la quale Abramo prepara e dice a Sara di preparare qualcosa per i viandanti, è il segno che Abramo intuisce una presenza misteriosa e divina. Nello stesso tempo, questo ci fa pensare, no? Come la fede sia sempre accoglienza di qualcuno, non tanto l'adesione ad una verità, ad una idea, per quanto bella e nobile sia, ma è sempre, come dicevamo nel nostro ultimo incontro, una relazione, dove all'uomo è richiesto semplicemente di aprire il cuore, di accogliere, di rimanere in ascolto. Vengono in mente le espressioni, un'espressione famosissima, famosissima di Sant'Agostino: timeo dominum transeuntem et non revertentem. Temo il Signore che passa e non ritorna. Nel cammino della fede ci sono momenti nei quali Dio in modo del tutto particolare ci visita. Ed è in quei momenti che tu ti devi lasciare trovare, devi essere pronto a fermarti, ad accogliere, a stare in ascolto del Signore. E possiamo dire che questo incontro e questa accoglienza di Abramo, che ha capito il carattere straordinario di questa vita, è stata gravida di conseguenze. Nel racconto c'è anche una specie di siparietto curioso, umoristico, perché Sara sta fuori ad ascoltare dietro la tenda. E quando questi viandanti dicono che l'anno prossimo avrebbe avuto un figlio, Sara sorride. Ma questi viandanti si accorgono del sorriso e chiamano Sara: ma tu hai riso di fronte a questa promessa di Dio. C'è una bella espressione: c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore. E naturalmente Sara nega, dice: ma io non ho sorriso. No, tu hai proprio riso. E il figlio che nascerà da Abramo e Sara si chiamerà Isacco, il sorriso di Dio. Ed è bello questo umorismo che tante volte accompagna la storia della salvezza. L'umorismo ci salva da prendere innanzitutto noi stessi, no, troppo sul serio, ma nello stesso tempo ci apre alla novità di Dio, a quella novità nella quale sembrava ormai tutto segnato inesorabilmente: un uomo di 100 anni, una donna di 90. Abbiamo creduto ad una favola, abbiamo creduto a qualcosa che non si è compiuto e realizzato, e invece Dio aspetta che noi abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità umane per compiere e realizzare il suo progetto. A voi tante volte noi usiamo e utilizziamo la fede come ultima chance, come ultima possibilità, e diciamo: beh, giochiamo la carta della fede visto che adesso abbiamo esaurito tutte le possibilità umane. Ecco, Dio ci aspetta lì, nel momento in cui abbiamo fallito tante volte con la nostra volontà, non siamo stati capaci di garantire nulla, e in quel momento si realizza per noi il sorriso di Dio. Dio sorride e rende possibile ciò che umanamente parlando sembrava irrealizzabile. Chiediamo al Signore la grazia, anche attraverso la meditazione di questo episodio, di essere sempre vigilanti, attenti, perché la visita del Signore avviene ed è in quel momento che ci è chiesto di essere pronti ad accoglierlo.